alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione Gabriele, ascolti Sassari. Attenzione Gabriele. Non ti sento, che sei Mirko? Ti sento molto basso, non riesco a capire quello che dici. Vabbè, adesso ho messo le cuffie, vediamo un po' se riesco a ascoltarti con le cuffie. Attento Mirko, mi ascolti? Io purtroppo faccio fatica ad ascoltare, Mirko. C'è QRM, molto QRM, e ne arrivi a quel livello, anzi anche meno. Per cui non lo so, vediamo un po' se tiriamo, se possiamo andare avanti. Mirko, non ce la faccio ad ascoltarti, non ce la faccio, troppo basso. Vabbè, ciao Mirko, ci sentiamo magari un altro momento in condizioni migliori, dai. Ciao Mirko, Giulio da Sassari, ciao. Ciao, salutoni, un abbraccio, ciao. Con chi stai parlando Luca? Luca? Che è avanti? C'è Cucca 9-10? Prova, prova, prova, 5-10. Avanti 10. Avanti un altro. Claudio, sei tu? Perché ce ne sono tanti così che escono così, ma non so. No, sono troppo rimbombante. Troppo rimbombante? No, ti tocca a te io. È troppo... troppo forte. Ah, troppo forte. E boh, non ho fatto niente io. Sempre a... a due qua il microfono. Io lo dico. Forse ti sei avvicinato troppo. No, io come ci sei saltato sempre a 20 cm, mai ci metto la bocca sopra, non so. Boh, comunque adesso va meglio rispetto all'inizio. Allora, sto bene, sì. Sempre benissimo, tutto la grande. Un po' sdraiato un divano guardando la TV, invece a vedere. Chi c'è, se non spengo tutto, perché io questa radio lascio sempre accese, a volume basso, perché certo la portante, non si è sentito un cane tutto il giorno, non dipende di una parte radio, giù. Vabbè, no, io ce l'ho accesa, infatti ho preso questa per quello, e gli altri stanno facendo altri lavori, quindi sono accesi ma non sprecati, ecco. Perché prima uno rimaneva qua in ascolto, però non è apparato da rimanere acceso di qua, ecco, tutto lì. E invece ti volevo telefonare per una comunicazione di servizio, se prende sempre la linea. Non so se dentro prende fuori, no, esco, bisogno di 20 gradi. Assolutamente, se prende dove ho il telefono ti rispondo, se no domani. Sì, ok, io ci provo, poi se vedo che non rispondi vuol dire che non arriva. Ecco. Se squilla lascialo squillare, non chiudere subito, capito? Già ti rispondo. Ok, ci provo. Prova. Oh, Gianfra. La stavo cercando anche io nel papiro. No, forse allarme. l'autorizzazione generale per l'attività di motore di comunicazione scadenza, siccome che l'autorizzazione generale di cui alla dichiarazione che avevamo fatto, ti ricordi, pervenuta il 23/3/2015, si intende valida fino al 31/12/2024. E allora, 2024, però devo controllare la mia, non vorrei che magari erano uguali, sì. Abbiamo fatto assieme nel 2015, ovviamente di più, mentre la licenza, la patente è quella che non scade, la federazione generale è quella che scade. Il Ministero dello Sviluppo Economico era già, l'abbiamo fatto nel 2015, direzione generale affari territoriali. Quindi questa è la comunicazione che noi abbiamo fatta, ce la citano lo stesso, si comunica che l'autorizzazione generale di cui è la dichiarazione pervenuta il 23/3, mi ricordo che eravamo in primavera 2015, si intende valida fino al 31/12/2024, si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento al numero, vedi, abbiamo anche il numero di Cagliari, 070 20 28 62 27, dottor D'Alessio ce l'aveva fatta, capito? Quindi fino al 2024, avevo il dubbio che scadesse quest'anno, invece sino al 2024. Infatti, io ho sempre il dubbio se erano uguali o meno, quindi tutto trovo. Figurati che ho trovato il blocchetto, squadre e tutti i ricordi che si è anche giallito del modulo, il famoso modulo di modulo messaggio delle forze armate quando eravamo pizzini nell'esercito. E diciamo appunto io, c'è un po' bello custodito già fra tutto, tutta la grande, capito? C'ho anche la lettera del cambio nominativo, la lettera di esonero della telegrafia, c'ho tutto nella cartella, tutto messo a posto. Sì, qua ci sono tutti i corsi, che caramba non si vengono tutti, ti fanno sempre questo papiro per niente, corsi, aggiornamento, corsi, ecco, ministro a posto di telecomunicazioni, adesso lo controllo, ogni tanto ne ho 3.000 anche di questi di papiri. Controlla, ma ti ripeto, l'abbiamo fatta assieme, mi ricordo come oggi, l'abbiamo fatta assieme, infatti eravamo sempre in contatto per questa cosa, quindi la protezione generale scade nel 2024, eccetera, la patente non scade, perciò siamo a posto, si può fare, controlla che sono qua io, tanto fra un po' vado a cenare. Ah, vai, falliero. Vai, cuocomane. Cuocomane sarai tu e anche Pirivella. Ecco, così impari. Ciao Gianfra. Gente, Gianfra, che te sei bambino, che avevamo il dubbio della licenza, pensavo scadesse 2021, invece l'autorizzazione generale scade nel 2024. E anche la buona anima di Salvatore scaverà nel 2024, porca miseria, abbiamo fatto tutto assieme, l'ho fatto tutto io. Vabbè, la cosa che mi ha rotto le balle è morto Giulio Tavoni per un coglione, perché lo dico veramente, un gergo maleducato, di cardiologo di merda, ma dimmi tu che se lo poteva, è andato lì con... Se stava male l'ha tenuto, no, ragazzi, è morto in ambulatorio, ma roba da matti, non si può vivere, cazzo, veramente la sanità di merda. Quando è così vuole portato subito su in cardiologia e fargli il lavoretto che hanno fatto a me, cazzo, immediatamente, se no crebbi. Sì, hanno denunciato, hanno fatto già un'inchiesta, esiteva il casino, ma stanno le zone regione, ma quando mai cazzo c'è un cardiologo, sai che cosa sei, cioè sei un salvavita, mi tieni un paziente così con un dolore al braccio e al petto, lo tieni lì un'ora, eh? Sapendo che c'è in corso un infarto, ma dove viviamo, cazzo, ma per carità. Sì, già lo so, purtroppo, cazzo, se hai il dolore al braccio, hai un'arteria ostruita e lì c'è l'infarto in corso, bisogna che ti facciano l'angioplastica immediatamente, a liberarti l'arteria e così ti passa anche il dolore del braccio. Veramente mi è piaciuto tantissimo, conoscevo benissimo in Giulio, sono molto amico del fratello di Nanni, siamo visti anche da poco via Catalocchino, ci abbiamo preso un caffè, infatti non l'ho ancora telefonato a chi, veramente, adesso si vedrà, ma dimmi tu, cazzo, un medico, cioè, il cardiologo è il massimo che ci può essere per un medico, cioè, cazzo, non vedi, no. Sono rimasto allibito quando me l'hanno detto, sono rimasto veramente scioccato più che allibito. Vabbè, Gianfra, ci sei? Sì, ci sono, ma sto ancora cercando, forse nella parte documentale vecchia. Qua c'è l'archivio. No, qui si è un po' disordinato, Dio, te ci mettiamo un secondo. Ci ho messo aperto il cassetto, una cartella che è sempre lì nel cassetto, nella cassettiera della sala radio, dove c'è scritto licenze e controcorrenti amatoriali, e ci sono tutti dal 1993 a oggi, anzi 92, come vuoi dire, VRT a oggi, ci sono tutti i conti correnti anno per anno, tutti ben messi, e poi la licenza, la patente e l'autorizzazione. Stai sereno, perché mi ricordo perfettamente che l'abbiamo fatta assieme, io, tu e la buon'anima di Salvatore di FC, l'avevo fatta proprio io, capito? Quindi mi ricordo perfettamente, quello me lo ricordo, quindi scade nel 2024. E vabbè, cosa ci vuoi fare? Pure a noi siamo capitati in ghissimani. Meno male, io già glielo... Adesso io sei per paura, perché subito è venuto il dottore lì, no? Quando mi hanno ricoverato in unità colonari. Ma di tu, guardi, gli dobbiamo fare un intervento, perché lì c'ha un infarto in corso. Se firma glielo faccio subito, altrimenti farà 3 giorni. Ah, sì, io, ma FIFA, non avevo filmato. Come se Giulio mi era successo. Lo so, però purtroppo la sanità sta andando allo sfascio, su questo non ci piove, è così, e vabbè. Va bene ragazzi, dai, mi allontano dall'altra parte, vediamo che devo preparare la cena, ok? Ci sentiamo, ciao Natalino, ciao Gianfranco, un saluto circolare a tutti, ok? Ciao. Ciao Cla, buon proseguo, buona cena quando la farai, io l'ho già fatta, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Cla, buona cena, io continuo la ricerca così lo inserisco nel database. Controllatelo, ma ti ripeto, mi ricordo perfettamente, quindi stai sereno, che è uguale alla mia, eh? Però fammi sapere. Ciao, buona cena a tutti per chi non l'ha fatta, ciao ciao. Andiamo bene, andiamo. Tu zitto, buon uomane, non parli adesso, me lo bene, non parli.